Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Jessica, ricevi quest'anello. Sintomo. È a simbolo del mio amore e della mia fedeltà nel nome del padre, del figlio e del... Ma che ti sei ingrassato il dito? Pos. Muccarza. Vai. Ivano, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Spigni. Nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Parti, Ivano! Se vi siete mai sposati o anche solo fidanzati e quel fatidico giorno scambiato, regalato o ricevuto in dono un anello, avrete facilmente sorriso ascoltando Carlo Verdone sposare Claudia Gerini nel film Viaggi di nozze. Tuttavia, portare un anello al dito potrebbe anche solo voler dire che avete vinto il titolo in un campionato professionistico americano. Se invece siete matematici, forse state esercitando gli occhi e la mente di fronte a un anello detto nastro di Möbius. Oppure, rilassati in una sera d'inverno, sarete in immersi nella lettura del Signore degli Anelli, il capolavoro fantasy di J.R.R. Tolkien. Se vi chiamate Yurikeki, va da sé. Avete una medaglia d'oro al collo. Vola. Vola. Vola. Vola. Vola verso il podio. Vola verso il podio, Yurikeki. Vola. Ce l'hai fatta, Yuri. Yuri, ce l'hai fatta. Yuri, ce l'ha fatta. Questo è un esercizio perfetto. Perfetto. Perfetto. È perfetto, è un esercizio da oro, sì, sì. È un esercizio da oro. Luigi Castiglioni e Scevola Mariotti, dalle pagine del celeberrimo Il vocabolario della lingua latina, ci ricordano che anellus non è altro che il diminutivo di anus, sostantivo che tra le numerose traduzioni include anche quella di cerchio. Ci serve precisarlo perché oggi a Destini Incrociati parleremo di due anelli che diventano cerchi, collegati a un mozzo mediante aste metalliche, dette raggi. Un giro di parole per dire che si parla di una bicicletta, nella fattispecie di una da corsa e nello specifico di una da pista. Una pista che il caso vuole sia a sua volta circolare. Un gigantesco anello, due biciclette e due corridori sono gli ingredienti essenziali per raccontare la storia di uno sport spettacolare e dei suoi grandi campioni. Allacciate il caschetto, iniziamo a pedalare. Correva spesso, c'era la gente così, ma era sempre strappiata, la gente arrampicata sui pali. La pista, e la pista, secondo il mio parere, è stata abbattuta dai professionisti. Il Coppi, quando ha iniziato qua, per dire, prendeva 100.000 lire per riunione. Dopo ho cominciato a vincere 200.000, 300.000, il Bartali fa, e io? E allora il Bartali è su. Coppi poi è arrivato a 1.000.000 e compagnia bella, noi 20.000, Coppi 1.000.000. Assieme alle parole dell'ex ciclista professionista Renzo Zanazzi, abbiamo respirato l'atmosfera degli anni d'oro del velodromo Vigorelli, storico impianto sportivo della città di Milano costruito nel 1935 grazie all'intuizione di Giuseppe Vigorelli, industriale ed ex corridore su pista degli anni 20 del Novecento. Con la sua pista ad anello di 397,7 metri, ricoperta da 72 chilometri di listarelle di pino di Svezia, il Vigorelli diventa da subito un prestigioso punto di riferimento per la passione sportiva dei milanesi, che ne affollano le tribune per assistere alle gare di sprint, di inseguimento, alle corse all'americana, alle gare degli Steyr, ai grandi incontri di box e ai concorsi ippici. La sua pista scorrevole e lucida attira corridori da tutto il mondo ed è teatro di sfide memorabili, record e campionati del mondo e anche tappa d'arrivo di importanti corse su strada quali il Giro d'Italia e di Lombardia. Da semplice impianto sportivo diviene un luogo mitico, vero e proprio tempio delle due ruote, spesso definito la Scala del ciclismo o lo Stradivari delle piste, e gli interpreti che ne calcano il parquet dei veri temerari della bicicletta, come ricorda ancora Zanazzi. Io ho visto il Giro di Francia, tante cadute, un sacco di cadute, perché non sono capace di andare in bicicletta. Qui devi correre col pignone fisso, senza freni, senza niente. 50 in gruppo, sei dentro il gruppo senza freni. Devi imparare a stare in bicicletta e passare dove si può passare, non devi frenare. Nel 1943 la pista del Vigorelli è distrutta dai bombardamenti e non è ricostruita fino al 1946, un anno in cui va di moda lo Steyr, una specialità del ciclismo su pista oggi non più praticata, durante la quale i ciclisti raggiungono velocità impressionanti correndo incollati al rullo di mastodontiche motociclette. E durante una di queste corse, che ha tirato dal loro rombo assordante, un ragazzino 14enne appassionato di motori chiede al custode di poter entrare al Vigorelli per dare un'occhiata. Non ha una lira in tasca per pagare il biglietto e il burbero guardiano gli concede solo qualche istante. Ma è sufficiente a cambiare il suo destino. Cerchi velocissimi che volano su un lucido anello parabolico fatto di pino rosso della Val di Fiemme. Si inseguono, si aspettano, vanno in fuga, vengono ripresi. Meglio di qualunque giostra del mondo. Il suo è un amore folgorante e istintivo, un destino segnato. Uno scambio di promesse tra una pista leggendaria, il velodromo che un giorno porterà il suo nome, e il nostro primo protagonista. Il suo nome è Antonio Maspes. Antonio Maspes. Con questa pista ho avuto sempre un rapporto straordinario. Quando entravo nel sottopassaggio pensavo ai campioni che lo avevano percorso prima di me e allora mi venivano i brividi. Lì sotto toccavo quelle pareti, perché sapevo che i miei idoli erano passati proprio in quel punto e sentivo emozioni che non si possono descrivere. Quel primo contatto con il Vigorelli mi lasciò una profonda impressione. Da ragazzo stravedevo soprattutto per le moto, mi piacevano tutte, le Guzzi, l'Orione, quelle inglesi. Poi amavo i motori, l'odore della benzina, i lavori di meccanica, al punto che una volta alla fiera di Senigallia, comprando pezzi qua e là, sono riuscito a mettere insieme una moto vera. Mi diede una gioia infinita. Mio papà, primo, che gestiva una grande lavanderia industriale, pur facendo la faccia dura sotto sotto mi lasciava fare. Io infatti lavoravo già e con l'autocarro M lo aiutavo tutti i giorni nelle consegne e quindi, se non esageravo, tollerava anche qualche mia esuberanza motociclistica lungo Viale Certosa. Mi piaceva la velocità, l'azzardo, ma mai più avrei pensato di mettermi a correre in bicicletta. Ma quella volta al Vigorelli, vedendo quella corsa di Steyr, capì che si poteva andare veloci anche con la forza delle gambe. A dispetto di un cognome spagnoleggiante, Antonio Maspes è un milanese puro sangue, nato e sempre vissuto in via Garegnano, a due passi dalla Certosa. Antonio cresce nella Milano della ricostruzione del secondo dopoguerra e poi del miracolo economico, dove a lavorare si va in tram e soprattutto in bicicletta. Alla sera al Parco Sempione, dalle parti dell'Arena Civica, quando i ciclisti sono soliti riunirsi per allenarsi insieme, è facile scorgere un ragazzino che si accoda con una bici sgangherata, le scarpe di tutti i giorni e i vestiti della scuola. Ma tiene il passo dei migliori, più grandi ed esperti di lui, e non sente la fatica. Nonostante le iniziali resistenze del padre, Maspes riesce finalmente a farsi comprare una bicicletta da corsa e senza perdere nemmeno un secondo si presenta al campionato italiano allievi. È il 1947. Antonio ha solamente 15 anni. Per iscriversi ne servono 16. Torna l'anno prossimo, è la risposta degli organizzatori. Ma il ragazzo non ha voglia di aspettare. Con l'aiuto della scollorina cambia la data di nascita della tessera della federazione, si ripresenta, si iscrive e corre. Naturalmente vince. La sua leggenda può iniziare. Se qualcuno mi chiede che cosa mi ha spinto a fare il corridore, non posso dire che ho iniziato perché pensavo di guadagnare una montagna di soldi. La ragione è un'altra. Quando assistevo alle premiazioni degli italiani e vedevo la nostra bandiera essarsi sul pennone più alto mentre ascoltavo l'inno di Mameli, provavo sempre un'emozione indescrivibile. Allora mi scattava una molla. Volevo essere io a portare in alto il tricolore. Ecco perché desideravo diventare un campione del ciclismo, perché volevo sentirmi orgoglioso di vedere la bandiera dell'Italia più in alto delle altre. Maspes, 7 volte campione del mondo di velocità e bronzo ai giochi di Helsinki del 1952, vedrà issarsi il tricolore e ascolterà le note di Mameli davvero molto spesso. Un carattere caparbio e tenace, a tratti strafottente, ma sempre sicuro di sé, anche negli affari di cuore. A 17 anni, mentre si allena, incontra Liliana, una ragazzina quindicenne in sella a una bici di seconda mano, da lui descritta come un ferro vecchio pitturato di giallo. Le taglia la strada, la ferma e le dice sfrontato: signorina, dove va con quel cancello? Per lei è odio a prima vista, poi un grande amore. ma il nome del futuro campione, la bella ragazza milanese, lo conosce già. Lo ha letto scritto sui muri del quartiere popolare di Milano, dove entrambi abitano e dove qualcuno ha scritto «Viva Maspes!», perché il ragazzino 17enne ha già vinto qualche gara e la gente lo ha subito eletto in cuor suo un campione. L'anello che non molto tempo dopo si scambieranno rappresenta il doppio simbolo di un indissolubile matrimonio d'amore e di sport. La signora Liliana, recentemente scomparsa, ha raccontato in un'intervista a Rai Sport quel loro primo incontro. Avevo visto il Vigorelli e ci facevano le corse a ostacoli con i cavalli. E così, quando mi raccontò che correva, pensai fosse un fantino. Mi era piaciuta la sua faccia onesta e franca, mi dava sicurezza. Era forte, per questo andavamo d'accordo. Io sono più sensibile, forse, e anche per questo, pur avendolo sempre seguito in giro per il mondo, certe volte me ne stavo in albergo mentre lui correva. Mi emozionavo troppo. Maspes, al contrario, è un duro del pedale. Il suo è un ciclismo fatto non solo di forza, ma anche di strategia, furbizia, pazienza. Qualità indispensabili per attuare il surplus, tecnica base di ogni sprinter che consiste nel bloccarsi interminabili minuti per lasciare passare davanti l'avversario e condurre la volata partendo alle sue spalle senza mai appoggiare il piede a terra né retrocedere per più di 20 centimetri. Un'arma che nelle potenti gambe di Antonio diviene presto micidiale. All'inizio la gente non era contenta perché aveva il treno o la corriera da prendere, andava di fretta, si spazientiva. Poi però iniziò a divertirsi della sfida. Surplus, dal francese star sul posto, una versione ciclistica del catenaccio calcistico, un esercizio micidiale che obbliga a spendere energie fisiche e psicologiche non indifferenti. Pedalare avanti e indietro senza mai perdere l'equilibrio, pur senza avanzare. Un impercettibile accenno di movimento che si risolve nel semplice appoggio sui pedali, fermi sul posto, in una sorta di moto perpetuo. Maspes stabilisce il record di surplus al Vigorelli ai mondiali del 1955 per 32 minuti fermo, rigido, incollato alla bici per far passare l'avversario. Il surplus è un esercizio che Maspes eleva al massimo livello, trasformandolo in una rappresentazione a parte, una competizione nella competizione. Una vera e propria arte che Antonio sublima al punto da inventare un microscopico specchietto retrovisore da applicare al guantino da gara con il quale controllare le mosse dell'avversario e non farsi sorprendere da uno scatto improvviso. Il soprannome Re del Surplus, che presto gli affibbiano giornali e tifosi, è nell'ordine naturale delle cose. Per vincere ho imparato molti trucchi. Il più grande trucco è stato quello di non lasciare mai nulla al caso. Calcolare tutto. Per esempio, mai staccare le mani dal manubrio prima di iniziare una volata. Una volta ho perso perché mi sono tirato sulle maniche. Un'altra per un cinghietto. Sono frazioni che valgono centimetri e i centimetri valgono una vittoria. Anche per il riflesso di un bottoncino ho perso. Ma poi ho capito che se il bottoncino rifletteva la luce, avrebbe anche potuto riflettermi la sagoma degli avversari. E a furia di lucidarlo ottenni lo scopo. Gli avversari non capivano come facevo, pur essendo davanti a capire quando scattavano, ma io vedevo la loro ombra. Un arbitro insospettito fermò tutto per controllare se nel casco c'era una radiolina. Non trovò nulla e dovette darmi la vittoria. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Tra gli anni 50 e 60, Antonio Maspes, il re del surplus, correrà e vincerà sulle piste di tutta Europa. A causa del suo carattere ribelle, a tratti irascibile, stenta tuttavia a farsi strada tra i dilettanti, dopo essere stato campione d'Italia nella categoria allievi nel 47 e 48. Dopo la conquista del titolo tricolore nel 1949 e medaglia di bronzo ai giochi di Helsinki nel 1952 nel tandem, insieme a Giovanni Pinarello. A 20 anni decide di passare tra i professionisti, tra lo scetticismo di molti tecnici che gli riconoscono doti naturali fuori dal comune, ma anche in costanza nella preparazione. Antonio non disdegna infatti qualche notte al night e ha una preoccupante propensione per il gioco d'azzardo che gli causerà poi qualche problema economico nel corso della vita. ma in vista dei grandi appuntamenti Maspes sa cambiare e ai periodi di inattività e bella vita fa seguire lunghi mesi di intenso e claustrale allenamento. Alle 7 del mattino lo si può già trovare davanti al Vigorelli, un bianchino per Battista, il leggendario custode dell'impianto, e un succo di frutta per lui. Poi in pista a provare il surplus e Battista a leggergli la Gazzetta dello Sport durante quei lunghi interminabili minuti, fermo sui pedali apparentemente a fare nulla. Altri tempi davvero, ricorda Maspes in un'intervista. Ai nostri tempi il doping era una cosa ridicola, praticamente non esisteva. C'era qualcuno che al massimo prendeva una di quelle pillole che usavano gli studenti che ti facevano rimanere sveglio tutta la notte, magari per preparare gli esami universitari. Nulla a che vedere con la sofisticazione dei nostri giorni. Il doping oggi fa male, è davvero una cosa micidiale. Non occorre il doping a Maspes, ma solo il duro lavoro per conquistare il suo primo titolo iridato, battendo in un'accesissima finale lo svizzero Oscar Plattner. E proprio in casa sua. È il 1955 e il Vigorelli saluta in delirio il primo di 7 mondiali e il nuovo record mondiale di surplus che Antonio fissa in 32 minuti. Mentre la Milano del ciclismo festeggia e celebra il suo campione, a meno di 200 km di distanza, un adolescente di Villafranca sta consumando i pedali della sua bicicletta lungo le polverose strade di campagna della provincia veronese. Non sa che un giorno non lontano le sue ruote incroceranno quelle di Maspes per dar vita a un'epica battaglia intorno agli anelli di tutta Europa. E il nostro secondo protagonista, il suo nome è Sante Gagliardoni. Sante Gagliardoni. Ed eccoci a una pagina d'oro della nostra pista. Sono di fronte Antonio Maspes, campione d'Italia, re degli sprinter e della velocità, e il suo nuovo avversario, Sante Gagliardoni, un azzurro. Passeggiando in bicicletta, tanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina, fai un fumetto respirando. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo provando a pedalare da fermi. Non è un paradosso, bensì il surplus, specialità di uno sport molto in voga tra gli anni 50 e 60, il ciclismo su pista. Fermo sul posto per interminabili minuti, il pistard, così è chiamato il velocista della bicicletta, attende il momento giusto per ripartire alle spalle dell'avversario, calando come un falco dal lato alto dell'anello di corsa per sfruttarne la scia. Poi, curvo sul telaio della bici, ingaggia a folle velocità la volata finale sul rettilineo. Un duello per gambe e menti forti, nel quale si sono spesso affrontati i due grandi campioni di cui vi parliamo oggi, Antonio Maspes e Sante Gagliardoni. Io le racconto un episodio che mi è capitato da quando l'ho conosciuto Antonio Maspes. L'ho conosciuto giù da Abano Terme, ai collegiali degli Azzurri, ero ancora dilettante e mi stavo preparando per le Olimpiadi di Roma. E i capelli del mondo che poi si è corso giù oltre il muro di Berlino nel 1960, che poi ho vinto. Ecco, io ho conosciuto Antonio, io praticamente lui, essendo io veneto e lui milanese, io l'avevo sentito parlare per radio, così non lo conoscevo di persona, l'ho conosciuto appunto in quel periodo e siamo diventati amici, diciamo amici, che lui mi faceva, tiravo sempre le volate. Allora una volta lui mi passava sempre, a un certo punto ho detto dentro di me, ma perché lo faccio passare? Vediamo se riesce a passarmi io mettendo in sola tutta. Allora io sono partito in pieno, invece quando lui mi ha attaccato io ho tenuto duro e lui non è riuscito a passarmi. E lui mi ha guardato e mi faccia, non fare il furbo, Questo mi è rimasto attaccato da sempre, perché Antonio era un bauscio, sì, come si dice, un milanese, però nell'animo aveva un cuore grande. E non è praticamente alle persone dava tanta amicizia e sicuramente era una persona di buon senso e un grande campione. Sante Gagliardoni, un nome d'altri tempi, dal sentore di leggenda. Nasce a Villafranca nel 1939, quando il mondo si prepara alla guerra, un conflitto che il paese veronese vive in maniera drammatica nel 1944, quando è pesantemente colpito da attacchi aerei alleati a causa della presenza dell'aeroporto utilizzato dai tedeschi dopo il 1943. Ma Sante è ancora un bambino. La sua infanzia spensierata e contadina è simile a quella di molti coetanei dell'epoca, ma il suo carattere determinato e grintoso non tarda a emergere, come ci racconta lui stesso. Ok, io sono appunto nato a Villafranca di Verona e da bambino ero nato contadino e andando a scuola i contadini non erano ben visti perché ero sempre vestito da contadino, insomma un po' peggio degli altri. E andando a scuola mi metto subito nell'ultimo banco appena arrivo. Allora penso, ho detto, ma come mai la maestra, no il maestro in questo caso, il maestro Turrini, mi ricordo bene, mi mette l'ultimo banco, non sa ancora se sono bravo oppure no. Però io da lì mi ricordavo e dentro di me tenevo questa rabbia che la tiravo fuori quando si andava in palestra, quando si correva a piedi. E io vincevo a piedi e vincevo tutte le gare del paese, che si faceva la cuccagna, tutte queste cose di paese. E il giorno che mi ero in mano la bicicletta di mia sorella, che era una donna, io ho fatto delle gare con dei miei amici che avevano le biciclette da corsa e li battevo tranquillamente. Allora ho pensato, perché non provare a correre veramente? Sante prende presto la decisione che gli cambia la vita e inizia a pedalare seriamente. La sua prima vittoria importante è la Luciano Bulgari, una gara che corre su una bicicletta da corsa non ancora pagata, che si precipita a saldare con il premio della gara che naturalmente vince. Nel 1958 trionfa nella Caldirola, corsa classica primaverile di livello internazionale, con traguardo sulla Comasina, e nell'autunno del 1959, dopo aver vinto 2 medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo, vince anche la Milano-Busseto. Le Olimpiadi sono ormai alle porte e Sante è selezionato nella rappresentativa azzurra. In quei caldi giorni d'estate, l'assolata capitale piena di gente e atleti provenienti da tutto il mondo è come un sogno per l'ex contadino di Villafranca. Villaggio Olimpico, una piccola città del sole, dove per 2 settimane abitano l'uno accanto all'altro giovani di tutte le razze. I giochi della 17ª Olimpiade si aprono a Roma il 25 agosto 1960. Sante ha compiuto 21 anni da meno di 2 mesi quando si presenta al Villaggio Olimpico vestito d'azzurro. Un sogno per il ragazzo venuto dalla campagna veneta. Eppure lui non è arrivato a Roma per fare il turista. Quando entra al velodromo olimpico, costruito per l'occasione in zona Eur, ha le idee molto chiare sulle sue possibilità. L'emozionante finale di velocità contro il belga Ernest Sterckx è nella storia del ciclismo e dello sport italiano. La riviviamo in una telecronaca dell'epoca. Eccoli all'ultima prova. Gagliardoni parte in testa, Sterckx lo pedina. Gagliardoni accenna a scattare, poi va in alto e aspetta. Picchia in basso, adesso parte. No, preferisce aspettare ancora. E Sterckx lo pedina sempre. Sono alla penultima curva. Il belga scatta all'interno, è primo all'ingresso dell'ultima curva. Gagliardoni tenta di passarlo all'esterno, è incredibile. Ci riesce! Questa è la seconda medaglia d'oro di Gagliardoni. La prima l'ha vinta nella prova a cronometro. Passa dall'una all'altra specialità con uguale bravura. Possiede la volata breve e la volata lunga. Ha lo scatto e la potenza. Correre contro un avversario o contro il tempo gli è indifferente. Tanto a perdere lui non ci sta mai. La medaglia d'oro è che tu aspetti una vita di allenamenti, di sofferenze, di rabbia che hai dentro. Io l'ho tirata fuori al momento giusto e vi giuro che non sentivo niente. Giravo in pista, la gente urlava, gridava, era tutta in piedi, io non sentivo un rumore, ero talmente concentrato che quando sono passato il traguardo mi si sono aperte le orecchie, ho sentito l'urlo della folla che mi abbracciava e così mi hanno preso di peso. Mi hanno portato da Mitre Fanfani, che era il capo del governo, e mi ha detto: Grazie Gagliardoni, grazie Xante. Sono orgoglioso di essere italiano. La gente come te merita questo successo. Sai, essendo un contadino, sentire tutte queste cose, io andavo in volo di giuggiole. Poi l'emozione è grande quando sul podio più alto, in piedi su là, e suonava l'inno nazionale, insomma, l'inno olimpico e nazionale, è una cosa indescrivibile. Uno non può spiegare la gioia che ti dà. Perché la prima volta poi che io poi volevo da bambino diventare qualcuno, volevo a tutti i costi essere migliore dei miei amici, volevo emergere, e lì quando uno ci riesce è una cosa fantastica, bellissima. Xante Gagliardoni torna da Roma con al collo due medaglie d'oro, nella velocità e nel chilometro lanciato. Ma quell'anno straordinario non è ancora giunto al termine, grazie alla conquista del campionato italiano in tandem e del mondiale di velocità dilettanti a Lipsia. Il talento veneto è ormai pronto per il salto nel professionismo, dove lo attende il confronto con un altro campione del mondo. È Antonio Maspes, il veterano indiscusso leader della specialità. Antonio nel 1962 in finale a Milano con lo stesso Xante conquista il suo sesto titolo iridato, praticamente imbattibile. Xante ci ha raccontato gli emozionanti momenti di quel primo duello. Finale a Milano, Vigorelli, lo stadio Zeppo pieno di gente, mi dicono che i ballerini allora per entrare pagavano anche 1 milione, però io queste cose l'ho sapute dopo. E c'era la finale col Maspi, io mi tenevo calmo in cabina perché tre giorni prima avevo fatto un mal di schiena terribile, mi hanno fatto un'infiltrazione dentro nella spina dorsale perché poter rimanere in piedi. Dopo 2 giorni stavo benissimo ed ero sicuro di vincere. Tant'è vero che il Maspes si vedeva che era molto preoccupato, e io vedevo tutto l'andazzo che i suoi gregari che faticavano, parlavano e facevano di tutto per far vedere che lui avrebbe vinto facilmente. Comunque siamo andati in finale, siamo andati su in pista, è stata una finale bellissima, perché io sono partito alla corda in pieno, venendo giù dagli ultimi 200 metri, ed è stato un tempo di 10.4, un tempo mondiale, e lui è riuscito a passarmi. Non ci avrei mai creduto che riuscisse a passarmi, perché quando io partivo era molto difficile, però il Maspes, grande campione, aveva un recupero lungo, ma quando recuperava era impossibile vincere la prima volata. Col Maspes io riuscivo a vincere, ma dopo 2 o 3 volate, perché lui, i tempi di recupero suoi erano molto più lunghi, io recuperavo molto più velocemente. Però mi ricordo quella finale è stata travolgente, ma è saltato via bene e ha vinto alla grande. Lì è stato bravissimo. Certo che dopo me la sono legata al dito e io speravo dentro di me, prima o dopo vedrai che ti batterò. Antonio Maspes, l'esperto campione trentenne, dall'alto della sua sopraffina tecnica nel surplus e la potenza di una gamba che non conosce appannamento, pare non avere rivali in quei primi anni 60. Il ciclismo e lo sport in genere hanno iniziato una metamorfosi che li vedrà sempre più oggetto di attenzione da parte degli sponsor, con conseguenze talvolta deleterie. Per Maspes, quello con il varesino Giovanni Borghi, proprietario della Ignis, ai tempi la maggiore azienda italiana produttrice di elettrodomestici, è un incontro che spiega qualcosa dell'origine della commistione tra sport e interessi economici. Il commendatore, noto per il motto «Salcusta», pronunciato al cospetto di qualsiasi cosa di cui volesse diventare proprietario, con l'arrivo delle prime riprese televisive all'interno dei velodromi, ha una doppia intuizione. La prima è far dipingere il marchio Ignis sugli anelli, in modo da essere ben visibile durante le gare. La seconda, pagare Maspes affinché durante i suoi surplus si fermi esattamente sopra il marchio stesso. A ogni minuto passato in quella strategica posizione, i soldi sarebbero entrati nelle tasche del campione in proporzione alla durata del surplus sulla scritta pubblicitaria. Ai nostri esasperati tempi, nulla di cui scandalizzarsi. Ha trovato qualcosa che le piace? No, grazie. Ma lei è incontentabile. Sempre. E questa cos'è? È la lavatrice Ignis PM System. Una novità assoluta nel campo delle lavatrici Ignis. Con Ignis PM System si può scegliere la velocità più adatta per centrifugare il bucato. L'oblò di una centrifuga, il cerchio di una ruota di bicicletta, l'anello di un velodromo, ma soprattutto il disco circolare di una medaglia da mettere al collo. Meglio se d'oro, ancor più se accompagnata dal titolo di campione del mondo. Molti simboli, ma un obiettivo solo nella mente di un campione: vincere, battendo l'avversario diretto con tutta la forza e la tenacia di cui si è capaci e al prezzo di sacrifici e duri allenamenti. Ed è quello che ogni giorno, da quel fatidico giorno al Vigorelli, prova a fare Sante Gagliardoni con ostinata determinazione, in attesa di prendere la sua rivincita. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. Destini incrociati. A destini incrociati, due grandi campioni del ciclismo di velocità si ritrovano per contendersi il titolo di campione del mondo. Il primo, Antonio Maspes, è il padrone incontrastato della disciplina, titolare di 6 titoli iridati. Il secondo, Sante Gagliardoni, di 7 anni più giovane, è alla ricerca di una rivincita dopo aver perso l'anno precedente a Milano la finale per il titolo proprio contro Maspes. L'anno è il 1963. La pista in cemento è poco scorrevole, quella della cittadina belga di Rocourt. Una prova Maspes, una Gagliardoni, finalissima, con la bella. Conduce ancora Maspes. Siamo sul rettilineo opposto. Maspes è in testa, Gagliardoni in seconda posizione. Ci si studia, attimi lunghissimi. Gagliardoni si alza, pronto per lanciarsi. Maspes è invece nella zona bassa, Gagliardoni sempre in alto, pronto a lanciare lo sprint. Maspes lo guarda, si alza ed ecco che l'avversario gli passa sotto, inizia una volata lunghissima al giro, tenta la carta della sorpresa. Maspes cerca di reagire come può, cerca di agguantarlo, ma ormai non ci riesce più. Allora, finale a Rocourt, abbiamo vinto una Maspes, perché quando c'era la finale che è stata rimandata il giorno dopo, io ero partito a un giro e lui venendomi dietro, c'è un'altra ruota dietro ed è caduto, e hanno ripetuto la prova. Riprendendo la prova si è messo a piovere, allora hanno ripetuto tutta la finale il giorno dopo. Il giorno dopo c'era la bella, la finale che si vede benissimo in televisione, come dimostra il fatto che c'è stato il sorteggio, è toccato a Massimo per condurre il primo giro, e poi lui mi condiziona, voleva fare il supraso. Allora io mi ero montato delle gomme leggermente un po' più larghe, di poter rimanere su in curva a non velocità, che un altro con le gomme normali non poteva rimanere su perché si sarebbe scivolato. E l'Antonio, il Maspes, ci è caduto nella trappola, nel senso che io sono andato in alto nella penultima curva prima di partire, lui non è stato capace, avendo le gomme normali, ha dovuto scendere e aspettava che io partivo dall'app e venirmi a prendere, perché lui si era fidato del suo scatto, ma io sapevo, dentro di me sapevo che avevo più fiato e potevo fare la volata lunga un giro. E infatti all'uscita della penultima curva sono scattato lì prima dell'ultimo giro. Lui ha tentato di venirmi dietro, ha fatto il possibile, si è avvicinato molto, ma io sono diventato campione del mondo praticamente, sempre sotto i rifugi alla grande, come avevo in mente da diversi mesi, che io avrei vinto battendo il 7 volte campione del mondo Antonio Maspes, e ce l'ho fatta. Sante Gagliardoni è il nuovo campione del mondo della specialità. Applausi per il giro d'onore di un nuovo re dello sprint che ha detronizzato il grandissimo Maspes. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridan tutti ai corridor. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno là per là la testa girerà e allegro canterà. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando Nel 1963, Sante Gagliardoni ha solamente 24 anni e al collo porta la medaglia d'oro olimpica e di campione del mondo. Ma il suo duello con Maspes continua e nel 1964 vince anche il titolo italiano di velocità, interrompendo la serie di 5 vittorie consecutive del grande milanese. Ai mondiali successivi, fino all'ultimo argento conquistato a Leicester nel 1970, Sante ottiene altri piazzamenti di prestigio, poi il ritiro. Sposa la cantante Elsa Quarta, scrive un libro, ma non smette mai di sognare e di pedalare. Perché io oggi vado ancora in bicicletta, non forte naturalmente, faccio quello che posso, quello che mi sento, perché mi fa star bene. Naturalmente, come un altro, mi guardo un po' in giro. Il mio progetto è di lasciare ai giovani un velodromo per poter andare avanti e insegnare al mondo come insegnavamo noi a correre su pista, perché allora tutti ci copiavano. Oggi non esiste quasi più niente. I bambini vanno ad allenarsi dove capita e di malavoglia. Ecco perché io ho creato un gruppo di miei amici al quale noi riusciamo forse a portare a termine ad Assago, un velodromo più grosso d'Europa, con 6.000 posti, e lì sicuramente ci sarà una scuola permanente per bambini di ciclismo, vi saranno invitati da tutte le federazioni, verranno lì a turno alla nostra scuola e ci saranno i migliori tecnici recuperati ancora e portati avanti questa scuola che secondo me è indispensabile per ritornare ancora grandi come prima. Il sogno di Sante, conoscendone il carattere, diverrà una sicura realtà che tuttavia non potrà essere vista e salutata dal suo rivale amico Maspes. Antonio il 19 ottobre del 2000 ha lasciato il ciclismo, la vita e il ricordo di sé, incancellabile. L'anno successivo alla sua morte, il Comune di Milano gli intitola infatti quel velodromo dove Antonio ha passato buona parte della sua esistenza. Quello che da molti è stato definito il Duomo del ciclismo, da quel giorno prende il nome di Velodromo Vigorelli Maspes. Ci vedevamo spesso a tutte le manifestazioni che fanno gli ex sportivi, così. Tant'è vero che è venuto anche al battesimo di mio nipote, da una cascina d'Agnoni, lui e la Liliana, la sua moglie, che anche lei è mancata pochi giorni fa. E queste cose qui erano commoventi, perché lui veramente lo faceva perché mi voleva bene, il cuore milanese che batte e ti dà l'amicizia, anche se che non sembra che sia così, ma dentro c'è questo stimolo di voler bene ad altri, e io questo lo apprezzavo, lo vedevo. E quando mi ha chiamato Roberto, suo figliolo, dice: l'Antonio papà mi fa, è morto, e io sono rimasto quasi svengo, perché me l'ha detto secco così, e io non ci avrei mai creduto. L'ho corso, sono andato a casa sua, io e Cerato, l'acide Cerato, che poi fa questo lavoro di, correva anche lui in bicicletta, fa questo lavoro di dare una mano appunto quando succedono queste cose, e l'ho visto là nel letto mio Antonio, e gli ho detto ciao, ci rivedremo ancora, intanto prepara qualche circuito buono, che quando siamo lì batteremo ancora tutti.